Mio nonno era un ragazzo davanti a Don Mimì, che pretendeva il pizzo come ogni venerdì. Mio nonno era deciso, sorrise e gli sparò, e i soldi li rimise sul marmo del Comò. La madre e le sorelle piangevano per lui, ormai era un ribelle, un angelo nei guai. Ma quando il maresciallo di notte lo cercò, le donne nello scialle risposero gnorno. Lui sul bastimento si svegliò, era il 1906, fra le braccia di una notte scura si giurò di non tornare mai. Ma quanto mare c'è da Napoli a New York, pensava alla sua mamma per riscaldarsi un po', finché fu tutto blu e il vento si calmò come una ninna nanna che lo riaddormentò. Io sono americano, non sono Don Mimì, ma tutti al Lucciardone mi chiamano così. Io la notte sogno sempre il Bronx e quella canzone che imparai. Il mio nonno col suo mandolino la cantava in faccia all'FBI. Ma quanto mare c'è da Napoli a New York, cantano gli emigranti, chissà se tornerò con questa nostalgia, picciotti amici miei.